un'altra impronta, poi ho finito, dai, ho finito con l'impronta e poi si prosegue al definitivo. Ragazzi, vabbè, tu hai il problema, io ho un altro punto mezzo, ce l'ho a maggio, che mi fa un altro attacco, mi fa, ho fatto un attacco che non lo so, 3 settimane fa ho fatto l'attacco, avrei sentito a posto, ho detto ok, mi vuoi vedere a maggio e dopo maggio iniziamo le impronte, spero Io a maggio avrò finito, ho detto fine aprile e inizio di maggio, dai. Vabbè, ma il mio è un po' complicato, ma a me mi ha tutto ricostruito l'osso e così via, capito Luca? È per quello. Stavo andando, se ci va bene, l'ultima volta che ho fatto, adesso stavano bene, adesso ne farò un altro a maggio, e dopo penso che mi chiamerà per impronta, speriamo. Ti mi ha chiamato appunto, che mi ha dato un messaggio, quello che prende gli appuntamenti. Ciao Luca, ricordati l'appuntamento di domani alle ore 11. Perché a me mi avverto il giorno prima, mi avverto. Mi avverto, mi chiama la signorina il giorno prima, si ricorda l'orario, perché io siccome non sono cazzato così, l'orario mio è dopo le... verso le 3, diciamo, dai. 2000 sono le 2:30, più le 2:20, però il tempo di salire, capito? Se è roba lunga, complicata, ho preso una giornata, oppure le orari più, capito, le 4 qualcosa, il tempo di andare a casa, cambiare, fare la luce, cambiarmi e salire, però se non fa qualche cazzata, roba veloce, sta così. Dai, non si preoccupi, salga fresca di roba veloce. Tutto qua, speriamo bene, dai. Mari, si può fatto, inutile, stiamo lì a girarla in tondo, capito? Poi l'hai fatto, io mi sono trascurato, purtroppo avevo la possibilità, poi mi sono deciso, ho conservato, conservato, e adesso facciamo quello che dobbiamo fare. Sarebbe perché adesso diciamo di tornare indietro, se volevo ritornare, se no ce la biglia come te possa ma. Questi soldi Luca sono spesi bene, questi soldi sono spesi bene, vai tranquillo, non può farsi, ci manca di altro, lasciamo stare l'affare mio, io ho un affare perché io sto lavorando, sì, però questi soldi l'avrei fatto anch'io, non preoccupate, vuol dire molto, sia per lo stomaco sia per tutto, hai capito? E stai bene. Ma a me è un po' più lungo perché me l'ha detto, guarda che è suo, perché io due, mi sono poco parole, io osso sopra, non di nulla, ma è tutto bagnato, ma è tutto fatto nuovo, tutto ricostruito, te l'ho detto, ho una placca, un rinforzo, così via, e poi mi ha messo i perni, tutto qua. Mi ha detto meglio un mese in più, un mese in meno. Comunque mi ha detto che stanno tutto bene, meglio così, adesso vediamo a maggio. Io spero che sia l'ultimo attacco e poi iniziamo l'impronto, se no anzi temo, è la notizia, speriamo che sia tutto bene, dai. Mica ci sono, quanto ne hai impianti tu? 4. Tra Giuseppe io, forse devo fare l'ottavo anche. E sono la Chiesa, buongiorno, ben entrato. E 4 perché gli altri sono tutti. Tutto bene, avanti maialetto. Bacione, bacione, avanti Luca. Falcone, avanti pole. Ok, venga a casa tua. Vuoi che muore, te ne butti la porta, Rogato. Brutto mago è che non si altro. E beh, buonasera a tutti. E lì sei a casa tu? E beh, si vede. Già si vede, vabbè io sto usando il Galax, ma non mi fido con questo Smith. Questo Smith va contro suo. Dunque, la relazione è bella chiara. Però Smith non ti posso insegnare perché è malato. È falso, avanti Luca. Ehi, Amari, bene, sto andando io, sì. Tu sei come sei a casa mia, qua a fianco, sì. Vabbè, sono agganciato, Così lo faccio andare un po' con la ritmo. Vabbè, sono quasi quanti arrivati. Vabbè, la radio è bella pulita, bella forte. Anche Antonio già non si può lamentare, vero Antonio? Ah, già, va bene, già. Oh, già mi sono dimenticato di una cosa. mattina, qua, ecco qua. Ecco qua, Gigi. Altro ti volevo chiedere, io non so, scusa, tu lo sai più tu che io. Chi c'è in quel negozio? Mia cognata, così è la moglie di Stefano, come sbaglio? In via Valdezza. Così mi hanno detto. La moglie di Mario, diciamo, mia cognata più la moglie di Stefano, no? No, la cognata sua, la moglie della moglie di Giuseppe. Ah, la moglie di Giuseppe c'è? Ma infatti forruggia la ganna a due. Allora c'è, l'ospite lo rispiego. C'è la mamma, cioè che è tua cognata, e vabbè adesso non mi lamentavo, la madre, e poi c'è la cognata di Giuseppe, capito? Vabbè, ho già capito, è la sorella di Veriposo, diciamo, là, ho già capito, là. Meglio bella, ok, avanti Luca. Ehi, cazzo, c'è lì a... Viene un cavallo, cazzarola, le bocche di Bonifacio, allucinante. Micidiale quel punto, micidiale. È arrivato al monte, è sua. Cioè, lì c'è più freddo, in confronto al monte. Che Maria non vi credi, è più freddo anch'io. Guarda, ok, io la mattina non sai, faccio il servizio e quando sono mancando tu vai in via Lussatti, sia in inverno sia neanche in estate, tu vai in via Lussatti, proprio fra via Lussatti e Piazza Castello, è la stessa cosa, un vento ti va a morire, avanti a tu. Allo gioco. Un vero rugoso, un vero grattacielo in chive, è sempre così, sempre, capito? Adesso è una cosa pazzesca, ma io ho notato anche l'estate c'è freddo, questo vento mi segheggia, vabbè. Avanti Luca, io sto aspettando che chiama la signora, so cosa è pronto. Facciamo un po' di orario, avanti Luca. Ma lì in Lussatti è peggio, ma scusami, è un cavallo, tira l'aria micidiale. Guarda, ti dico un'altra cosa, Mari, tu non ci credi che a casa di Marina d'estate, quando apre le finestre del terrazzo che affaccio a Piazza dei Duri, beh, tu mi credi che la notte devi tappacchi per freddo? Sì, credo, è tutto aperto, Luca. Lì è tutto aperto, è per quello che c'è freddo, anche se tu passi dall'altra parte c'è freddo. Se è aperto, non c'è niente da fare. Avanti, ma è spugno. Ora, ma siamo qua, ora. Non sai Luca come si sente, come si è attaccato? Fai lo so, con l'attacco di micro. Eccomi qua, guarda a vedere se va meglio così. Ehi, allora è aumentato, cosa vuoi copiare, a Luca, no? A me vuole copiare, no. Aspetta, attacco l'altro, così ti do il controllo, aspetta, attacco l'altro parecchio, là. Riprendi, tu. Prova a modulare, Luca. Uno, due, tre, prova. Ehi, prova a vedere un po'. Mirate, tutti e due lo stesso segnale, guardi 9:20. Attenzione, magna di gomma, capo. Ah, Luca, 9:20, il segnale di Antonio mi sta dando. Attaccato? Io sono attaccato, sì. Se stacco un po', voi ce la vedete, guarda adesso, Mario, quando arrivo, guarda un po'. 9:15, diciamo, dai. 9:15, è così, 9:20, giusto? Esatto, 9:18, 9:20, vai. Adesso come ti caccia qua? Adesso la parola è quasi calda, bene, com'è? Si dà, ti fai una cinquantina, 9:18. Ah, non sta venendo niente questo amplificatore. Aspetta, ma io che ti è stato modulato, Antonio. Prova, non lo vedete. Cazzo, oggi grazie. A un lurga, lo sai. Beh, tu ne hai molti di più di me, è normale, cazzo. Secondo te? Ma tu sei sei tu? 100? Le balle. 200? Sì. Già va bene. Il più piccolo sono io, vai. È un passaggio, Mari. Prova in questo passaggio, uno, due, prova. Sì, 9, 10, a picchi di 15, abbondanti. Sto usando normale, io sono liscio, non so niente. Sono liscio come un fiore. Sto usando, ecco. 706 sto usando. Avanti a tu. Gappa. Ora, questo sovramodulato a Lucca poco fa. E allora? Lo stavi avanzando, lo salvi? Nulla è la potenza che c'è qua. Avanti Lucca. Già va bene, dai. Allora, praticamente questo baracchino qua c'ha 3 watt. Se io gli vedo di più è normale che l'amplificatore spinge di più. Saranno una cinquantina di watt circa. Ma io ho che 50 watt non è così, no? Io che più del doppio. Già va bene, tu pensa che io sono ottavo, Io sono ottavo, Luca, non siamo vicini, diciamo, dai. Non siamo a parità di potenza, Luca. Che scalda, più scalda e più pompa. E adesso vediamo se sono deciso, mi se prendermi quello là per remita che ne dà 300, questo sì che pompa. Ma non è, fai volare Luca. No, transistorizzato è meglio, dai. No, fa più veloce, sono ancora a scaldare, guai. La usi invece fin da coso. Infatti faccio un paio di passaggi e poi basta. Ma questo è cattivo, più scalda e più bomba. Adesso ti sento più un po' sazzo, figurati. Aspetta un attimo. Ora, migliorato. Perché tu sta pompando di brutto, Ora, la mazza di Nivaria, segata col fluido. Avanti Luca. C'era di bugie di info. Vabbè. Ci abitavo chi su palazzo, ma c'è di fronte i guai. Lei sei asso qui. Quello è alto. E a me mi compro nei palazzi, sono da, comprato da palazzi davanti. Io arriverei bene lì a Padaniera, che è libero. Ha perso la parte tua, Maria, un po' chiuso, Vabbè, comunque, come segnale, non ci vuole. O sei uno schiaccio, come si sente un zocco. O lo senti, tac, come il tac, come si sente. Invece Antonio no, Antonio è normale. Tu con lo schiaccio vuoi essere con lo zocco. Cappa. Già c'è coso. Ciao Antonio, Luca con lo schiaccio si sente proprio il rumore, proprio come sta schiacciando. Proprio il tac. Tu avevi, sei normale, capito? Signore, vi saluto, vi stiamo chiamando per la cena. Ciao Luca, ciao Antonio, ascoltatori, permettimi, Luca mi prende, ciao. Ciao Maria. Sentiamo, l'una di Radio Brovato sopra, Gesù Greccio mio. Dico, ciao Marino, alla prossima, dai. Già ti posso appare, dai. Ciao, grazie per le due chiacchiere. Ciao Luca, ciao Antonio, domani, ciao. Ciao, ma volta solo ho fatto, sennò quello mi uccide. Avvisami al platamone, arrivi a quasi 9:20. Beh certo, normale. È normale. A parità di potenza, cioè se, come ti posso dire, io con un 1200 di macchina, tu con un 1500, mi superi, no? Così è con l'amplificatore uguale. È un amplificatore micidiale però. Però questo veramente, questi qua te li danno davvero li fatti, no, buffonete. Attenzione Spagna, ecco piatti Italia, Brecco. Vai, Gorrodone. Nel 45 non si sente più nessuno. Cappa, dai, torno alla normalità, l'ho fatto per accenderlo un po' a me. Torno alla normalità, dai, se no i nocchi. Trattatoni sai, infatti. Andiamo bene, andiamo. Sono nessuno. Ma questo va molto meglio, va. A voi, non c'è nessuno stasera, sta sempre a tomba di gente, mi. Forse sarà il burro sacchi di modulare il radio. Aspetta. Oh cazzo. Aspetta un attimo, no, che. Cazzo, tutto pure qua, cioè. Ecco. Ora. Ah, va bene. Ello, oggi il poco che sono fatto in deposito, il poco, ho sentito un po' di gente, mi capito? Era pieno casera. Ehi, Antu, se tanto sei con me, ti mando un messaggio, un attimo, ti rispondo subito. Dimmi, Antu. Stavo portando il cellulare a Sara. Scappa. Ti stavo parlando di quella persona là, ti stavo parlando oggi. E così che... cosa c'è? Ti stavo dicendo... io devo buscarmi un computer, buscarmi imparare bene il karaoke. Ho capito, Antu. Dell'amico tuo. Beh? Che mi devo buscare un karaoke. Allora, i karaoke ci sono anche su internet, Antu. Poi ti devi comprare la licenza. Lo devo chiedere, adesso vediamo, dai, lo chiedo a... Quindi, perché me l'hai ricordato? Lo chiedeva a Costanzo, Sanna. E mai lo diceva lui, lo facevo... ma non ha tutte le basi, ho visto. Vabbè, comunque già, adesso devo fare un attesi. Chissà cosa, come me la solta l'ha fatto. Poi ho visto un macchinario bello io, so che costa una macchina. Per fare il karaoke, ogni base costa 90 centesimi, ogni base in più che vuoi mettere. Cosa tu, ogni base? Allora, ho visto questo macchinario da Treme Musica. Bello, proprio per fare il karaoke professionale, solo che costa 1000 euro. Chi è 1000 euro? Che cosa ragazzi? Ci sono già le basi, ci sono, tutto completo, poi con una che devi scaricare che non c'è, un brano che non c'è. Per dire, lo scarichi costa 90 centesimi. Chi è? Un bel dirano? Eh sì. Di che chi sei formidabile. Che a quella gaffa. Ehi, vabbè, non sei impegni di tanto. Sara, non entra, non li puoi impegni. Non li puoi spendere, capito? Sì, finché non busco il karaoke, come ce l'hanno tutti i karaokisti, in genere non spendono soldi, capito? Lo faccio a quella maniera là e va bene lo stesso. Beh, certo. Certo che sì, è così, capito, non fa altro. Perché non li, cioè, devi cacciare prima di là, se uno vuole migliorare, devi già iniziare in casa dei soldi, non che poi li spendi e magari non fai niente, non ha senso, capito? Beh, certo. Dice Mirko ce l'ha, vero? E cosa c'ha Mirko? Non è a karaoke. No? Anzi sì, però lo può usare, c'ha karaoke... Ma come si chiama? Karaoke 5. Non si può usare perché senza licenza? No. Cioè, cosa facciamo? Non lo può... Ma comunque... Ecco, un metro scudere in mezzo e via a me. Non sai quanti vanno anche, ci fanno ci mettono un programma che tolgono la pubblicità. E quanti vanno a farlo su YouTube pure. Ehi, Antu, adesso vediamo un attimo cosa mi dice, dai. Luca, Luca. E beata lì. Antu. E allora? Allora, avevo il volume a zero, l'ho alzato e ho sentito a voi, perché stavo chiudendo tutto. Cappa, tutta la sera attesa, vedrai, no? Sì, ma ero al computer, stavo facendo cosa, capito? E allora avevo abbassato il volume per quello. Lui c'è bravo di computer, Anna è madre di karaoke. Ce l'avevo. È vero? Sì, c'avevo... programma di karaoke che c'erano tante canzoni, capito? Pure io me lo scaricare, fare. Appena che acquisto il computer devo farmi mettere un bel po' di base. Almeno comincio già a lavorare. Gara gara. Ciao. Ciao Natalia, è bella. Ciao Luca. Andiamo bene, andiamo che... Andiamo bene, andiamo. Oh, yeah. lo metto uno bello con la licenza, tutto bello aggiornato, tutte le basi, tutti i brani, e mi pago. Quella sia è 32 euro se ci vogliono. Ma quello se lo paga il gestore. Non lui, se lo paga Mirko ogni volta che vengono, ogni volta che vanno a cantare. Non ho capito, se lo paga Mirko? Ogni volta che vanno a cantare, se lo paga Mirko la CIA. Per forza. Sei già in caccia di non ti preoccupare. Se lo fa ti vuoi guadagna. Io non credo che guadagni, 32 euro sono un cazzo, poi si paga 70-80 euro il carocchista, a voglia che ne ha. Me quello che fa carocca già guadagna, adesso non ti preoccupare tanto. Quindi Costantino, se lo fa lui guadagna, non dico il doppio, ma già guadagna. Già guadagna sì. Adesso con la serata che deve fare? Sabato il bagaglio. Eh beh certo. Qui poi in realtà lì, ma tu di bianco la vada a cambiare la pagliolifa. Poi te la muglio. Visto là, devo stare qua finché non mi posso fare la iniezione, capito? E con tutto che ho mangiato presto, però devo misurarmi la glicemia dopo 2 ore che ho mangiato. Mamma mia, ogni casino. Sì, amo. Rughida è sempre con queste cose, mamma mia. La glicemia, misurenti, prenda che dura. Ui, non ci vorrei mai finire così, no. Vorrei mangiare, bere, tranquillo e sano. Beato te che puoi mangiare tutto quello che vuoi, cazzo non hai nessun problema. Io devo stare attento a su chi mangia. E dico, speriamo non finirci così male, mamma mia. Una prigione, Anto, una prigione. Lo so, non puoi mangiare chi vuoi. Allora ragazzi, che faccio di mangiare un bel panino con la mortadella? E non me lo posso mangiare? Vabbè, paura non ti fa di nulla, va. Guarda, è una prigione. Lo so, l'importante è che non ne abusi. Quella cosa non dice che non devi mangiare. Se ti ne mangi uno, ok, l'importante è che non sia 2 o 3, o che non sia continuo tutta la settimana, quello fa male. No, ma Marazzucci, se ti ne mangi uno, gatta, sta la glicemia, ricelli. Vabbè, ti fa una unità in più. Ah, ok, io non ne faccio insulina, mi tiro una pastiglia e mi dura tutto il giorno, ne devo fare solo quella della notte. Vabbè, l'insulina la vai però. Ehi, una alla notte mi voto, prima ne faccio 4. Mamma mia, che... 4 insuline al giorno faccio. Pesante, quindi ti è calmato un po'. Ehi, diciamo che a me non mi sale tanto, perché sto attento a quello che mangio. Si mangi rubani in data l'insulina, è stata la glicemia, è tutta la roba a gustino che vuoi mangiare. Beh, invece di mangiare rubanino, la spianatina con la mortadella, cioè, non è pesante come il pane. Poi, come si mangi i bani, data la glicemia. Se io addirittura invece di mangiarmene uno di panino, quando lo mangio, ne tolgo tutta la mollica e me ne mangio la metà. Troppo della mozzarella, manco delle cavolo, manco lo gordo. E già è un anno che non ne so più, ma da quando va giù il diabete non la giù più mangiare. Ma secondo me la spianata è più leggera. Io mi cacca e vuota, piglio un pacco di spianata e cazzo se voglio la mozzarella in mezzo, non arredo, Mamma mia, non me ne dire. E allora... vabbè, però cacca e vuota, dai, non muore nessuno, penso che non muore, no. Una vuota, cazzo. E già lo so. Già lo so. Ma non bisogna abusare, se abusi mamma è diventata cieca. bisogna stare attenti. Vuol dire che mangiava sempre cose che non doveva mangiare. Non stava a regime, no. C'è una volta gli ho misurato la glicemia a ora di pranzo. Gli ho misurato. Cos'è cantura via? È tanto. A 500. Allora. Vira via. Ma cosa vuol dire che abbia mangiato? Ma uno se si mangia una cosa una volta, se di nuda. Già lo so. Mamma è perché faceva stravizi, capito? Mangiava. Non stava a regime, diciamo così. Forse c'è di regime e faceva una cosa sana e c'è campata ancora forse. Anzi è dura da così un bel fa cosa la dimusotina. Canta andiamo via quando è morta. Una sessantina mi pare. A Paola sai c'è stata novantenne. Ma era messa male forte. La figliata, siccome faceva strabizia, era diventata cieca perché gli era venuta la retinopatia diabetica. L'aveva pigliata là che non si reggeva più in piedi. E pari così, però è subito il diabete. Pari che non vai nuda, ma poi se ti bicicletta si bicicletta mai quando ti bicicletta. No, roba bella, no. Io adesso me ne sto rendendo conto perché ce l'ho io e adesso so che è una prigione proprio, capito? Allora ti dico a pinta all'orario di potermi fare la misione e poi mi si può sbloccare. E allora, davvero proprio, mamma mia. E beh, giovani, marmotte, cosa stai combinando? E mi ho alzato, avevo il volume a zero della radio, no, perché stavo facendo altra cosa. E ho trovato Antonio e Luca. Guarda. Bene, dammi la vecchia, ho finito il suicidare. Qua era tutto acceso che ho sentito e sono entrato. Scusa un attimo, ho suonato il telefono. Con voi. Facci. Anche se ci sono tutto massegato. Guarda adesso, Antò, cosa dice? No, già andrendi. Riprende, ha colorato il microfono. Sta segnale anche forte qua, 9.40, sì. Aspetta un secondo, guarda adesso, Antò, com'è? Prova, cazzo di capicitino con casino. No, non mi interessa segnare, la radio mi interessa a me. Qualche volta un po' spezzettata arriva. Ma come spezzettata? No, adesso ne va bene. Ma è buona come radio, è forte, lo devo fare. A quest'ora, cavolo. No, la radio è buona, non c'è niente da dire, però molte volte si sente qualche cosa che manca, tipo qualche cosa che non fa di contatto. Aspetta! Mi sa che sono uscito a spettentare. Hai fatto. Regale, però tu devi controllarlo quando uno modula. Deve abituarsi a controllare lo Smith, perché uno sa come esce, capito? Io lo sto guardando e so che sto uscendo, i picchi stanno sbattendo bene. Lo so, Anto, sta andando tutto qua. Ma siccome adesso lo conosco, come sta facendo questa cosa? Capito? Ma come che schiaccia il microfono? Guarda adesso com'è invece. No, andare va, però ogni tanto manca questa modulazione. Oh, che strano, aspetta un attimo, non si alza il cavolo DPL, ma che faccio lo stesso problema dell'altro, ma sta andando qua. Io non guardo quello, io guardo i LED dell'amplificatore. Se si illuminano tutti vuol dire che sta uscendo bene il radio. Mi hai copiata tu? Ehi Daniele! Daniele, sono un attimo una papiglia di PC, capito? Aspetta, tu mi sono spostato un attimo. Cosa? Ma vado a prendere gli occhiali. Si sente un po'. Aspetta, trovo l'altro microfono, aspetta. Mamma mia, oggi è proprio vero. Andiamo bene, andiamo. E quindi lui ti stavo dicendo che io adesso piano piano, con la pazienza, mi organizzo bene. E ti posso vedere che io un po' divento anche bravo. Ehi, piano piano tu, e così fanno piano piano. Certo, ci vuole un po' di pazienza a comparare che sul gozzo. Poi dopo, quando c'è le cose in mano, ti avviso e vediamo un po' di mettere le cose a posto. Guarda adesso, Antù, che forse ho capito una cosa. Com'è? Ti devi prima esercitare, così quando fai le serate sei più tranquillo, sereno e fare le cose fatte bene, capito Antù? E magari ti sfugge qualcosa, ma una volta che ti eserciti col computer devi anche, visto che te lo devi comprare nuovo, devi esercitare col PC nuovo. Oppure magari, cosa ne so, per imparare bene bene per la costruzione te lo fai insegnare a lui e poi una volta che sei pronto lo puoi fare più tranquillamente. Devi selezionare le basi e non è facile, non è difficile, però non è molto facile. Non so. Vai Daniele. Ah vero Luca, guarda adesso Antù che c'è andato in protezione e questo ho capito cosa è. Com'è, troppo forte la radio. Aspetta che mettiamo tutto così, così. Guarda cosa dice. Ha dei mancamenti, ma così un po'. Lu, tu sempre bene mi ascolti. Mi fai? Guarda, un po' metto sempre il flutto, 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, sì, benissimo, Daniele. Lo sai cosa è? Non è tanto il... Guarda, è anche troppo forte. Oh, là. Forse così va bene. Non è tanto i coperti, no? Anche quelli sì, incidevano. Ma è come è alta la modulazione, siccome c'ha il mic gain troppo aperto, capito? Quindi va a passare anche la radio. Oh, aspetta, non c'è un coso. Oh, magari è troppo forte il radio e... Lo sto pensando, perché in deposito io ti sentivo bene. Vabbè, Antù, ci sono tanti fattori, Magari qua siamo ancora più vicini. Aspetta, faccio un'altra prova, aspetta. No, in deposito sono più vicino a te, non qua. Guarda cosa dice adesso, che ha abbassato 1, 2, 3, 4 e 5. Come lo senti tu, Lu? C'è qualcosa che non anda. No, Andrea, sto dando tutto, Antù. Capito? Per calciare stazionare, niente. Lo senti? Questo è il graffiamento del microfono, quello che senti. E niente. Anzi, ha abbassato di più la radio, la modulazione, avevo passato un altro pelino. Va bene. Ando bene. E cosa sta lì? Tu bene mi ascolti? Ti stavo ascoltando bene, adesso è tornato, prova a fare il passaggio liscio, bene. Guarda, 1, 2, 3, sono abbassata anche la potenza, sono sceso di parecchio. 1, 2, 3, 4 e 5. Non mi senti gracchiato? No, perché a quest'ora, una volta che entro in radio, mi senti tutti male. No, adesso stai uscendo bene, lascialo così. Che siamo troppo vicini tutti quanti e se alzi troppo si sente male. E invece così, Natalia, guarda questo passaggio. 1, 2, 3, 4 e 5. Così sei tu. Vai bene. Ok, vabbè, io vi saluto, vi ringrazio per il QSO e me ne passo in QRT. Ciao a tutti. Ehi, a Natale, dai. buon QRT e buon tutto, se coincide ce l'ascoltiamo domani, dai. E prendi i bomboli. Scappa, saluto e apparito, ce la risentiamo, ciao ciao. Io, sicuramente le modulazioni troppo alte mi trappano per qualche motivo che io non mi ricordo, che c'è una voce di attenuatore qua. Che non facciamo così, capito? Scappa. Perché questa è la più forte che ho, capito, di malacchino. Sono ad attaccare l'87. Ho capito. Adesso sentiamo LC. Ma tu la stai usando il 40? Sì, ma oia, cosa ho schiacciato? Voilà. Qua c'è scritto, attenuatore. Ah, eccolo qua. Hola. Cazzo tocca. Guarda che l'hai toccato il processore adesso. Dammi, di nuovo l'ha fatto, guarda. Lo sta facendo di nuovo. Hola. Rompimento di guglion, vai a vedere ora. Tu stai sempre bene, tu. Io lo sapevo, non c'è il calotto adesso. Però Daniele, se tu ci la bocca al microfono esci male. Guarda adesso Lucarie, già sta andando, sì. Aspetta, passiamo tutto qua. Stai andando in protezione, non so perché. Capito, ogni tanto questo va, si spegne e si riaccende. Ah, ho capito, va bene, dai. Mamma mia, ho messo. Hola, hola. Uscendo solo. È basso. Cazzo, non l'ho toccato. Ora, meglio va. Adesso sì. Abbassa un pelino, tu. E c'hai la radio troppo alta adesso. Tu stai attaccando il processore, sa che attacca il processore. Devi cercare atti. Capa, filtro ANL. Prova tutto, glielo. Prova a vedere adesso. Si è toccato il processore di sicuro. No, negativo. Hola, hola, hola. Ma perché mi stai girando i coglioni? Guarda che sta puttana. Hola, hola, guarda a vedere. Così attivo. Hola, hola. A vedere, va bene adesso? Ehi, non tocca se, lascia così. E va bene, eppure stasera non ne ho, sono 1-1 io. Tutto a Rogero. C'è qualche cosa qua che non sta andando. Ora, Adesso provo a mettere l'87 a vedere, dammi due secondi che commuto l'antenna. Eia, che vediamo su da. Ora, va bene, là. Adesso ci siamo. Troppo alto, era vero. Ora. Ora. Troppo potente. Ora va bene. O quasi, là. Ora. Tu troppo forte il radio. No, troppo alto si alto. Ora va meglio? No, basta. Ora, così va bene adesso. Così sì. Ciao, papà. E ora c'è il processore, c'è. Ora questa com'è invece? Già va bene già. Questa è l'87. Aspetta, se metto le cuffie e poi lo innesco. Va bene. Adesso vediamo se anche con questo fa lo stesso problema. Ecco. Ora, no, così è troppo. Ora, lascia vedere cosa dice. Gava. Perché sta facendo? Il problema lo fa col frutto. Capo, dai. Vuoi vedere, adesso è un bel forte, è vero, di radio. Dove vai, tu? Ho dovuto abbassare parecchio, adesso sta sbattendo un bel, Andale. Scusate, c'è il processore che non sta mandando. Gava. No, c'è stato un abisso, Mianto. Sicuramente tu stai venendo senza processore, è diverso. Non te ne sei neanche accorto che l'hai disinserito. Ma già mi sono capizzato che pompende la radio. Cappa. Ma dopo il potenza, vai. Vamos, ora, già andare. Facciamo aria, no, quindi. E si sente adesso che lui, prima era sempre stato sopra la radio normale. Capito. Poi mi chiede anche a Luca. Ma cioè perché è migliore delle mie. Che cosa? Gli altri mi dà la prospera. No, già va bene, lascialo così. Se lo metti, vai brutta. No, ho detto, adesso che ha messo il processore, si sente che è inserito, e che è lui, che è il K. Ah, sì, certo. Prima invece non si sentiva così l'amplificazione così forte. Sì, no, sentiva no. Ora sì che si vede che va bene. Che parola. E infatti c'era qualcosa di strano. Che mi tornavano i conti. Va bene. Aspetta perché l'ho spento adesso. Ehi, la leare. Questa possiamo anche spegnere. Va bene, gava. Ma c'è la ventola accesa, c'è. Lo sai cos'è, senti la ventolina. È la ventola del drone. Aspetta. Guarda, adesso non senti più niente. Non era male, dai. Allora, così diamo un po' di potenza, ma è troppo. E di meno, va. Adesso va bene. Ora. Ma le picche come sono? Negative o positive? Prova tu, che risale, non si muove, prova. 2, 3, prova. Un pelino positivo. E quanti volte li stai dando? Non lo so, un po'. No, mica tanto. Io stavo con 10 watt, sto andando. Una cosa del genere. E guarda che te lo segnali. C'è il TURLC. Mi secondo come lo imposti, mettilo su power e te ne accorgi, no? Già lo so. Sotto c'è 7:10 c'è. Che ce l'ha portato? Non dovessi fermare con tutto il PVR. 10 Quindi già va bene, dare di più. Ah, già basta, non ho voglia. E il bicchiere da quanto ce l'hai? Meno di metà. Cioè, un po' più su, dai. Tra l'A e la C? Io ho bisogno di A4. A4? E quant'è la scala? Da 0 a 5? Sì, quanto è? Da 0 a 10. Sì, già vabbè, mio è sotto la M, pensa tu, ce l'ho un pelo, ce l'ho. No, qua c'è un po' di più perché non è tirato. Se lo metto più su, guai. Faccio un po' di casino, vado, no? Ti senti anche quello che dice il vicino, poi? Bisogna tararli bene, parecchi. Guarda adesso, com'è Antu? È sotto la I. Bene, guarda il casino. Guarda, adesso li metto come la P. Guarda, sotto la M adesso. Lo sai perché ti sentivo trappato? Perché c'è quel coso a TTT e accelerativato. L'attenuatore, all'ATT è l'attenuatore. Gava. Va bene, sto sempre pensando perché c'è la protezione, lui. Lo fa di meno, ma stava giù, guarda. Sì, sto andando perfetto, io sono in protezione, che sarà. Non lo so per quale motivo. Non dire a me perché non lo so. Caso strano, le stazionarie sono basse. Per le mie sono basse qua le stazionarie. Quello massimo che sale uno è qualcosa, uno è due, non di più. Capito? Modulati. Se no la grande fissa è. Non si muove neanche, si può dire. Però bisogna vedere sempre quanto sono affidabili questi strumenti, che c'ho due strumenti, la testa G, uno dopo l'altro, non ti è. Capito. Con questo, vabbè, questo è accordato, è tutto. Ma quando fa accordare ci mette... neanche un secondo ci mette, di tutto. Perché si è messo in moto là. Quindi vuol dire che il stazionale non ce ne so. Capito, come giro, lui accorda, fa mezzo giro, neanche, e già spento. Addirittura. Diciamo, quando accorda si sente tutto il meccanismo che gira e che fa, capito. E se va al 45 metto accordare, lui si accorda in un secondo, è già accordato. Poi scendo qua al 10, schiaccia la portante, come schiaccia è già accordato. Ma perché non utilizzi l'accordatore? Cioè, con che diventazionario? Io c'ho l'accordatore di linea, Antu, capito? Ah, ecco perché. Capito. Niente. Però se preme la bella, che se non ne hai, almeno così è sotto controllo. Gava. Adesso vediamo in sé. Se stiamo bene, andiamo dal cinese. Ma mi hanno detto che sono accordatori, buone, dici che si fa dici effettivamente quello che ci ha vinto, è vero? Questa accorda tu, tanto. Questa accorda, tu pensa che io stavo uscendo anche con l'antenna che era tutta incasinata quella con l'energy. Capito? Lui prendeva e accordava, e faceva sempre andare, perché questi erano sempre fermi alla fine. Buono così. Cioè, praticamente se vuoi un'antenna che non è adatta per quella banda per accordare, te se dici. Se in quanto ce la fa accordare, anche lui c'ha un limite, non è che metto un filo di un cavo, non come di... di 58 li prendeva la corda, capito? Nei suoi limiti lui prende e accorda. Sì. Ma mi hanno detto comunque che ci sono così allucinanti accordatori che, cioè, accorda. capito, baromi, c'è gente che ha preso un contenuto VHF la porta 527, ma può essere una cazzata. Sì, buono. No, lo saccio, se c'è riuscita, buon per lui. È completamente diversa l'antenna. Eh beh, cosa ne dici? Sì, dopo ne aveva una, aveva una Grand Play di UHF. Sì, c'è. Io questa accorda 7002, quella del genere, la accorda lo stesso. E me la pongono. Chiara, chiara. Ti affunge. Adesso vi provo, sarebbe comodo nell'altro a lei sapere, adesso questo fatto il conto il casino fammi. Avanti. Ehi, Antu. Ma mi senti? Sì, che ti sento. Gava. Aspetta, questo non sta tornando indietro, sulla cazzo di successo. Ok. Va bene, guarda, così sempre buona la modulazione, Antu. Va benissimo. È un po' più cittofonica però, Ancora. Guarda così, 1, 2, 3, 4 e 5. Ma il microfono è... capito? Sempre lo stesso microfono, quello che c'era nel Pluto ce l'ho qua. Beh, un po' così di cittofonia, ma vabbè, non mi va di nulla. Questo è l'87. Già lo so, ma il microfono che c'era, dove? Guarda, adesso non mi ricordo se c'era questo, quello che stavo usando nel Pluto, o non me lo ricordo. Già ne ho un altro qua di microfono, già c'era il microfono su, è qua su, già ce l'ho, ma non mi piace. No, quando lo usavo io compava forte, insomma, quello grande. Quello AM, usava a cavolo lui. Quello fingeva un bel... ma funziona? Sì, esatto, che non va bene per la mia modulazione. Prova a vedere che voglio sentire. Aspetta che glielo attacco. No, vedi. Dopo te lo dico io. No, non sta uscendo. E come mai non sta uscendo? Aveva un difetto, ma mi pare. Come se esce. Aspetta, tanto guarda questo. Non sta uscendo e se stava andando, è questione di modulazione, se stava in protezione pure il drone, guarda. Quando c'ho la radio troppo forte, non bisogna fare così per abbassarla. Ma se non ti fa un po' la radio tu? Sì. Di molto? No. Hai montato il microfono? No, la radio, deve diminuire. Ma ti fa bene la radio? È così? Ora. Sai io, cosa la radio deve diminuire? Tu non ti preoccupare, tu arrivi quando inizierà la modulazione. Io in questo non posso andare. Lascia stare così. Va bene? Ehi, è questo che microfono è? Questo è davvero la CTE. E quello là non va, quello che... Quello c'è un problema di connessione, tu. Perché il tuo corso un pochino stavo andando, però... devo controllare bene. Capito? Perché tanto qua da... a mente... Mettila a posto, che quello è buono il microfono, quello lì quando lo usavo io spingeva forte, ma forte per me. Luca! Mia mamma mi è andato pure a letto, sono stanco, Beh, buonanotte Daniel, comunque quello di mettilo a posto, lo proviamo. Perché io mi ricordo che quello era meglio del CT eppure, ci ha mossi un bel. Sì, sopra i 45 non lo usavo, KK, dai. Dai, ci sentiamo, non vado su più. Mi sto dormendo, ciao ciao. Ehi, non puoi, dai. Ci ascoltiamo tutto quanto. A domani se coincide. Buon proseguimento e buon tutto, dai.